Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. Bentornati alla trasmissione Fumetti a Sinistra, un mondo dentro al balloon, che oggi credo presenti una testimonianza davvero interessante, quella di Lia Finzi, ex pioniere di Venezia, una giovane ragazza di famiglia ebrea che venne deportata al tempo dei nazisti in un lager svizzero, rientrata fortunatamente viva a Venezia, subito aderì a queste forme scautistiche legate alla comunità ebraica, allora la sinistra ebrea aderente al Partito Laburista, che poi confluì come esperienza nell'API, divenne grande collaboratrice ed amica di Carlo Pagliarini e ha vissuto in modo intenso, davvero da vicino, le vicende dell'Associazione Pionieri d'Italia. Ci racconterà appunto le analogie di tante esperienze educative, solidali ed umane rispetto ai ragazzi che ne riconoscevano fino in fondo i diritti. Ci racconterà anche la fine dell'API e anche la malinconia e il sapore di cose perdute che questa cosa ha creato in tanti militanti della sinistra. Dopo uno stacco musicale, la parola dunque a Lia Finzi. Esperienza diretta, perché nasce addirittura la mia esperienza con gli Tzofim, che sono i giovani esploratori ebrei d'Italia. Ero in Svizzera e in un campo di internamento c'era un giovane Tzofè, un giovane esploratore di Milano, che ci ha coinvolti, i giovani che eravamo in questo campo di internamento, parlandoci dello scautismo. E quando io sono tornata a Venezia, per fortuna sono stata tra quelli che sono riusciti a tornare, la comunità ebraica di Venezia capì l'importanza subito di coinvolgere i bambini e i ragazzi all'interno della comunità, anche con altri che avevano conosciuto questa esperienza in Svizzera, abbiamo organizzato l'associazione a Venezia degli scout ebrei. E c'erano anche in altre comunità, le più grosse a Milano, a Verona c'erano pochi ragazzi e dipendevano da Venezia, e facevamo campeggi, andavamo con questi ragazzi al campeggio breve, magari di una settimana. Mi è stata molto di insegnamento aver letto e studiato Kojak sui diritti dei bambini. Il dottor Kojak era un medico polacco che dirigeva il convitto, era per gli orfani, i bambini orfani. E quando è successo che i nazisti cominciarono a deportare dal ghetto di Varsavia gli ebrei, il dottor Kojak, direttore dell'istituto che seguiva i bambini orfani, avrebbe potuto nascondersi da amici, ma lui ha detto no, io resto con i miei bambini. Fu portato a Terezin e poi ad Auschwitz con tutti i bambini. E aveva scritto i diritti del bambino, che assomigliano molto poi ai diritti che ha intuito anche Carlo Pagliarini, tanto è vero che poi dopo l'API, nell'Arci Ragazzi ci sono alcune indicazioni di come dovrebbero essere organizzate le città a favore dei bambini. E Kojak ancora nel 1943 ne aveva parlato di questi diritti. E a me avevano molto colpito, perché conoscendo i bambini, perché mi sono sempre occupata di pedagogia, era il mio interesse maggiore anche da ragazza, mi aveva colpito: ogni bambino ha diritto al verde, ogni bambino ha diritto all'aria e all'acqua pure, ogni bambino ha diritto all'amore e al rispetto, ogni bambino ha diritto a un'alimentazione sana e corretta, ogni bambino ha diritto alla pace, ogni bambino ha diritto di non essere lasciato solo, ogni bambino ha diritto ad avere una bella scuola dove è bello imparare, ogni bambino ha diritto di essere un cittadino riconosciuto, ascoltato e rispettato, ogni bambino ha diritto di non essere strumentalizzato e sfruttato, ogni bambino ha diritto di essere un bambino. E questi diritti di Kojak li avevamo già applicati, direi, prima ancora di conoscere l'API, in questa organizzazione piccola, che gli ebrei sono pochi a Venezia, 500 oggi, ma allora un po' di più, però bambini non molti, però era organizzato in modo che i ragazzi partecipassero, elaborassero un giornalino, leggevamo i classici della letteratura ebraica, cioè avevamo tutto già una metodologia di lavoro con i ragazzi. Conosciuto Carlo Pagliarini, che è diventato un grande amico, anche perché la moglie di Carlo, Luisa, era segretaria del gruppo comunista al Senato come mestiere, faceva l'impiegata al gruppo. Eravamo diventati molto amici, tanto da passare poi le poche vacanze che facevamo dopo i campeggi, dopo le attività. Un grande amico Carlo è stato, oltre a essere così entusiasta del lavoro che faceva, si occupava con una passione tale che coinvolgeva per forza alcuni insegnanti che durante le vacanze estive, dopo aver lavorato tutto l'inverno nella scuola, accettavano di venire a dirigere i campeggi, a lavorare con i ragazzi, non era facile, ecco. Ed era stato importante per me conoscere Pagliarini in questa associazione che aveva come ordine del giorno verso la vita, come una parola d'ordine, come coinvolgere i ragazzi a rispettare la natura, soprattutto e prevalentemente la conoscenza della natura e il rispetto della natura. E gli adulti avevano capito che dovevano rispettare i diritti dei bambini, che era la priorità, che si era capita anche, direi, nelle case del popolo, che nelle sezioni del Partito Comunista avevano capito che era importante rispettare il luogo, l'angolo dei pionieri, le attività prodotte dai pionieri, i burattini, i disegni, gli scritti, le storie. Rispettavano all'interno della sezione del partito i diritti dei bambini era la priorità e si era capita. Perciò, come scrive Carlo Pagliarini nel libro, obiettivo primario dell'API fu rendere i ragazzi cittadini consapevoli. E questo è scritto molto bene nel manuale dei pionieri di Gianni Rodari. E il manuale dei pionieri è chiaro su questo discorso dei cittadini consapevoli. E nelle organizzazioni giovanili, Federazione Giovanile Comunista, quando io cominciai a occuparmi dell'API, ormai ero già Federazione Giovanile Comunista, i ragazzi più grandi collaboravano con l'API o la dirigevano addirittura. Dall'inizio degli anni 50 vengono formati, forniti anche nella sezione, capivano l'importanza della biblioteca, di avere materiali specifici su richiesta per un'attività svolta educativa, pedagogica, compravano i libri, compravano le riviste, sistematiche pratiche di confronto intellettuale che li impraticano in compiti di monitori e educatori, questi giovani della PBC. Ecco, i quadri dell'API essenzialmente erano volontari, non retribuiti, vengono portati a sviluppare ruoli e orizzonti culturali non legati esclusivamente all'apprendistato di lavori manuali, ma anche la capacità di capire il senso di un libro, per esempio, la discussione su un libro letto. Leeren Kinder mit Großgeschäft, also so hier kajo, wat wat wie neiken kennen iwe, wer bekint davon, wat wie neiken kennen iwe, der bekint davon, zette Kinderle, geten zetaie, wo sie sich lehren, du, seit ihr noch einmal den Tag noch einmal, komm jetzt alle vor, seit ihr noch einmal den Tag noch einmal, komm jetzt alle vor. Fino al 20 marzo a Palazzo Morando a Milano ci sarà la mostra Wonder Woman, il mito, questo per celebrare gli 80 anni del Ruina, simbolo di uguaglianza e lealtà. Il progetto promosso da 24 Ore Cultura, Gruppo 24, One e Warner Bros. Si snoda in un arco temporale che va dalla Golden Age del fumetto americano, dal 41 al 55, fino ad oggi, attraverso un percorso curato da Alessia Marchi e dallo storico della moda Maurizio Francesconi, perché capita anche nella settimana della moda milanese. Nelle varie sezioni, comics, video installazioni e proiezioni, i costumi del film Wonder Woman e Wonder Woman 1984, ma anche scudi, spade, archi e frecce usati sul set per raccontare tutto il mondo di Wonder Woman. Proprio Alessia Marchi la sentiremo ai microfoni di William Piana. Supereroi, perché il supereroe nasce negli anni 30, appena prima del, cioè, da, tra la caduta della borsa, no? Sì. Del 29 e il conflitto mondiale. Quello è il momento in cui, appunto, da una grande crisi, noi cerchiamo di trovare attraverso l'evasione un altro motivo per guardare al futuro. Quindi questo supereroe, che è poi la mitologia americana, il supereroe arriva da lì. I supereroi servono a quello. C'è una copertina che abbiamo in mostra dove c'è Wonder Woman che giocando a bowling tira giù le teste di Mussolini, Hitler e Stalin. Quindi sì, c'è questa tutta questa narrazione che riguarda la guerra, ed è la guerra, la fine della guerra, a decretare la crisi del fumetto supereroistico negli anni 50, momento in cui anche Wonder Woman viene, come dire, riportata a una certa normalità. Sono storie molto banali, anche perché considera che nel 1954 viene pubblicato questo libro che è La seduzione degli innocenti, da parte di uno psichiatra